Storie italiane. Il pifferaio di Amelin. Tanto tempo fa c'era una piccola città chiamata Amelin. Questo paese poggiava sulle rive di un fiume in Germania. Era una città tranquilla e piacevole. Ma circa 50 anni fa, la gente fece di Amelin una pattumiera. Cominciarono a gettare la spazzatura sulle strade, al di fuori della loro casa e ovunque andassero. Anche il sindaco della città ignorava la situazione. E come risultato, la città era piena di ratti. La gente di Amelin soffriva di tante malattie diffuse dai ratti. I ratti erano ovunque in città. Entravano nelle stalle degli animali, mangiavano i formaggi e aprivano le scatole contenenti il cibo. Usavano scarpe e cappelli per farne il loro nido. Erano persino nelle sale riunioni, rovinando le conversazioni con i loro scherzi. Oh! I cittadini andarono al palazzo del sindaco per un suo aiuto. Liberati dai ratti! Il sindaco udì il grido della folla e uscì. Che cosa c'è? Vogliamo che ci liberi da quei terribili ratti il più presto possibile. Oppure non ti voteremo più come sindaco? Chiederò al consiglio di fare una riunione. Vi aiuteremo! La gente si fidò delle parole del sindaco. Egli organizzò un incontro con il consiglio. Dopo lunghe discussioni e dibattiti, non riuscirono a trovare una soluzione al problema. Ma improvvisamente qualcuno bussò alla porta. Avanti! Un uomo entrò nella stanza, l'uomo più strano che nessuno avesse mai visto. Indossava un lungo cappotto particolare, con una metà rossa e l'altra metà gialla. Era magro e alto. Le sue dita stavano giocherellando impazienti, come se stesse giocando con un tubo. Dimmi, sei scappato dal circo? Tutti nella sala si misero a ridere. Sono il pifferaio magico. Ho un potere segreto che ammalia le creature del mondo. Qualsiasi creatura in terra, in acqua, in cielo, che corre o cammina, il mio potere ammalia tutti. Rospi, gatti, scoiattoli, persino vipere, ragni e ratti. Ratti? Puoi ammaliare i ratti? Dimmi come ci riesci. Ho liberato la gente della città africana da un enorme sciame di grilli. In una città asiatica ho salvato la gente dai pipistrelli vampiri. Vado in giro per il mondo per salvare le persone da queste creature. Ok, mostraci il tuo potere e liberaci da questi ratti. Show! Certamente, sindaco, ma per questo tu mi darai 1000 fiorini. Sì, certamente, quello che vuoi. Cosa ne dite, membri del consiglio? Il consiglio approvò la decisione del sindaco. Può iniziare a lavorare. Il bizzarro pifferaio uscì per la strada e sorrise. Tirò fuori il suo flauto. Iniziò a suonare 3 note strillanti con il suo flauto. Come per magia, tutti i ratti uscirono dalle case, uscirono dalle scarpe e dai cappelli, lasciarono il cibo che stavano mangiando. Ratti grigi, ratti bianchi, ratti marroni. Tutti insieme raggiunsero la strada e cominciarono a seguire il pifferaio. Passo dopo passo, marciarono per la città fino al fiume. La gente di Amelin rimase stupita. Avevano la bocca e gli occhi spalancati. Il pifferaio saltò su una pietra nell'acqua e si alzò in piedi su di essa suonando il suo flauto. I ratti caddero ciecamente nel fiume e annegarono. Uno dopo l'altro si gettarono dentro l'acqua inconsapevolmente. Presto non rimase nessun ratto e Amelin era stata liberata dai topi. Il pifferaio si recò dal sindaco per la ricompensa. Ho fatto il mio lavoro. È giunto il momento che mantenga la sua parola. Voglio i miei soldi. Hai fatto un lavoro meraviglioso, ma 1000 fiorini per un lavoro di un paio d'ore è esagerato. Hai capito, amico mio? È una grande quantità di denaro da pagare in un giorno. Non mantieni la tua promessa. Ti pagherò un centinaio di fiorini, sono più che sufficienti per un giorno di lavoro. Ma non è giusto. Ti mostrerò cosa posso fare. Uno stupido pifferaio come te non può danneggiare un mattone in questa città. Prendi questi soldi e vattene via. Il pifferaio lasciò la sala, arrivò in strada e tirò fuori il suo flauto. Iniziò dunque a suonare il suo strumento, ma questa volta la melodia era diversa. Uno per uno i bambini cominciarono a seguirlo e a camminare dietro di lui. Il pifferaio iniziò a camminare e i bambini lo seguirono. I loro genitori e parenti erano storditi da quella melodia e non potevano muoversi dai loro posti. La melodia del pifferaio li fece intorpidire. Il pifferaio attraversò il ponte fluviale e si diresse verso la montagna. Mentre raggiungeva la montagna, un portale misterioso si aprì tra le rocce. Il pifferaio entrò e i bambini lo seguirono. La porta si chiuse dietro di lui. L'unico rimasto al di fuori della grotta era un ragazzo disabile che non poté arrivare prima che fosse chiusa la grotta. Mentre la musica si fermava, la gente correva verso la montagna. Lì trovarono solo un bambino vicino all'entrata e chiesero degli altri bambini. I bambini sono entrati in una grotta. Prima che io potessi entrare, la porta si è chiusa. Ma perché tutti lo stavate seguendo? Quella musica ci ha promesso di portarci nel Paese delle Meraviglie, dove è pieno di cioccolatini, biscotti e le torte crescono sugli alberi. Mi ha anche detto che posso correre con le mie gambe. Ma la musica si è fermata all'improvviso e mi sono trovato di fronte a questa montagna. La gente si sentiva triste e cominciarono a piangere per i propri figli, ma fu tutto inutile. Oh, figlio mio! Torna, torna! Oh, figlio mio! Chiamarono a sé il sindaco e lo incolparono di tutto. Ho perso anche mio figlio! Mi dispiace per tutto quello che ho fatto! Ti ho portato i 1000 fiorini! Ti prego, dacci i nostri figli indietro! Torna indietro, pifferaio magico! Con loro sorpresa, il pifferaio uscì da dietro la montagna. E tutti furono sollevati dopo averlo visto. Oh, siamo contenti che sei tornato! Dove sono i nostri bambini? Sono tutti allegri e felici, ma torneranno se mantieni la promessa. Il sindaco diede 1000 fiorini e subito il portale della montagna si aprì. I bambini uscirono e abbracciarono con affetto i loro genitori. Mamma, papà, che bambino, che bello, papà. Pifferaio, ti ringrazio a nome di questa città. Grazie per averci salvato dai ratti e hai restituito i nostri figli. Non declinerò mai più una promessa in futuro. Perderete i vostri figli e anche i ratti torneranno. Cosa? Cosa? Perché? La vostra città è sporca. Questo attira i vermi, i ratti e gli insetti. Arriveranno delle malattie nella vostra città. E presto i vostri bambini saranno malati. Questo non deve più accadere. Come sindaco di questa città, mi prendo la responsabilità di mantenerla pulita. Butteremo i rifiuti solo nei bidoni e faremo tutto il possibile per mantenere la nostra città libera da ratti e da malattie. Sì? Sì! D'accordo! D'accordo! Ok, è giunto il momento per me di salutarvi. Il pifferaio magico lasciò la città di Amelin, che divenne una città pulita come 50 anni prima.